Capitolo 166esimo. Gli oracoli di Troia. Achille era morto e i greci cominciarono a disperare. Calcante ora profetizzava che Troia non sarebbe caduta senza l'aiuto dell'arco e delle frecce di Eracle. Odisseo e Diomede furono dunque incaricati di salpare per Lemno e di andarli a chiedere a Filottete, che a quel tempo ne era il possessore. Alcuni dicono che un pastore del re Attore, Fimaco, figlio di Dolofione, aveva ospitato Filottete e medicato la sua ferita negli ultimi 10 anni. Altri sostengono che parte delle truppe melibee di Filottete si erano stabilite a Lemno presso di lui e che gli Asclepiadi l'avevano già guarito servendosi dell'argilla di Lemno prima che i messaggeri greci arrivassero, oppure che Pilio o Pelio, figlio di Efesto, aveva provveduto alla guarigione. Si dice anche che Filottete avesse conquistato certe piccole isole lungo la costa troiana per conto di re Eveno, scacciandone gli abitanti carii, un favore che Eveno contraccambiò concedendogli la sovranità sul distretto lemnio di Acesa. E in tal modo, spiegano codesti autori, Odisseo e Diomede non ebbero bisogno di allettare Filottete promettendogli cure miracolose. Egli li seguì volentieri, con l'arco e le frecce, per aiutare i greci a vincere la guerra e procurarsi gloria imperitura. Tuttavia, secondo un'altra versione, i messaggeri giunti a Lemno seppero che Filottete era morto da molto tempo in seguito alla ferita e indussero i suoi eredi a consegnar loro l'arco e le frecce. Filottete, in verità, rimase a Lemno, tormentato da atroci sofferenze, e Odisseo riuscì a strappargli con un inganno l'arco e le frecce, ma Diomede, e non Neottolemo, come alcuni erroneamente sostengono, non volle essere implicato in quel furto e consigliò a Filottete di pretendere la restituzione del maltolto. A questo punto intervenne il dio Eracle. «Vai con loro a Troia, Filottete!» egli disse, «e io manderò laggiù una Asclepiade affinché ti guarisca, poiché Troia cadrà una seconda volta sotto le mie frecce, e tu sarai scelto fra i greci come il più valoroso combattente. Ucciderai Paride, prenderai parte al saccheggio della città e porterai in patria un ricco bottino, riservando la parte migliore a tuo padre Peante, ma ricordati, non potrai entrare in Troia senza Neottolemo, figlio di Achille, né egli potrà entrarvi senza di te». Filottete obbedì. Al suo arrivo al campo greco si bagnò nell'acqua corrente e dormì nel tempio di Apollo. Durante il sonno Macaone, il chirurgo, tagliò via la carne putrida dalla ferita, vi versò sopra del vino e vi applicò un impacco di erbe salutari e la pietra serpentina. Ma altri dicono che fu Podalirio, fratello di Licaone, anch'egli medico, che si incaricò di curare Filottete. Non appena guarito, Filottete sfidò Paride a un duello con l'arco. La prima freccia mancò il bersaglio, la seconda forò la mano di Paride, la terza gli accecò l'occhio destro e la quarta lo colpì alla caviglia, ferendolo mortalmente. Benché Menelao cercasse di finire il rivale con un colpo di lancia, Paride riuscì zoppicando a rifugiarsi in Troia. Quella notte i troiani lo portarono sul monte Ida e Paride supplicò la sua antica amante, la ninfa Enone, di medicargli le ferite. Ma la ninfa, mossa da un invincibile odio nei riguardi di Elena, scrollò crudelmente il capo in segno di diniego e Paride fu riportato a Troia. Subito però Enone si pentì e corse in città con un cesto colmo di semplici, ma trovò Paride già cadavere. Impazzita per il dolore, si gettò giù dalle mura, oppure si impiccò, oppure salì sul rogo in fiamme. I pareri in proposito sono discordi. Certi scrittori giustificano Enone dicendo che essa avrebbe medicato le ferite di Paride se suo padre non glielo avesse impedito. Fu costretta dunque ad attendere che egli fosse uscito di casa per accorrere con i semplici, ma ormai era troppo tardi. Eleno e Deifobo si disputarono allora la mano di Elena, e Priamo appoggiò le pretese di Deifobo, affermando che egli si era dimostrato il più valoroso in battaglia. Ma benché le sue nozze con Paride fossero state volute dagli dei, Elena non poteva scordare d'essere ancora regina di Sparta e moglie di Menelao. Una notte una sentinella la sorprese mentre tentava di calarsi giù dalle fortificazioni con una corda. Fu condotta dinanzi a Deifobo, che la costrinse a sposarlo, con grande disgusto degli altri troiani. Eleno lasciò immediatamente la città e andò a vivere con Arisbe sulle pendici del monte Ida. Calcante rivelò allora che soltanto Eleno conosceva i segreti oracoli che proteggevano Troia, e Agamennone incaricò Odisseo di trascinarlo al campo greco. Eleno si trovava nel tempio di Apollo Timbreo, ospite di Crise, quando Odisseo venne a cercarlo e si dichiarò pronto a rivelare gli oracoli segreti purché i greci gli consentissero di rifugiarsi al sicuro in qualche terra lontana. Egli aveva abbandonato Troia, disse, non perché temesse la morte, ma perché né lui né Enea potevano perdonare il sacrilego assassinio di Achille compiuto da Paride in quello stesso tempio, tanto più che nessun sacrificio espiatorio era stato offerto ad Apollo. «E così sia», disse Odisseo, «rivelaci tutto ciò che sai e io garantisco per la tua vita e la tua sicurezza. Gli oracoli sono brevi ed espliciti», rispose Eleno. «Troia cadrà questo autunno, se un certo osso di Pelope sarà portato nel vostro campo, se Neottolemo prenderà parte alla battaglia, se il palladio di Atena sarà rubato dalla cittadella, poiché non si potrà aprire una breccia nelle mura finché il palladio rimarrà dov'è». Agamennone mandò subito messaggeri a Pisa alla ricerca della scapola di Pelope. Frattanto Odisseo, Fenice e Diomede salparono per Sciro, dove indussero Licomede ad autorizzare la partenza di Neottolemo per Troia. Secondo alcuni, egli aveva soltanto 12 anni. L'ombra di Achille gli apparve al suo arrivo nella Troade, e da quel momento Neottolemo si distinse sia nel consiglio dei capi, sia sul campo di battaglia. Odisseo, di buon grado, gli cedette le armi di Achille. Euripilo, figlio di Telefo, giunse in aiuto dei troiani con un esercito di Misi, e Priamo, che aveva offerto un tralcio d'oro a sua madre Astioca, se gli avesse concesso di venire, gli promise Cassandra in sposa. Euripilo si dimostrò un valoroso combattente e uccise Macaone, il chirurgo. Ecco perché nel santuario di Asclepio a Pergamo, dove ogni funzione inizia con un inno in onore di Telefo, non si può mai pronunciare il nome di suo figlio Euripilo. Le ossa di Macaone furono riportate a Pilo da Nestore, e i malati vengono curati nel santuario di Gerania. La statua inghirlandata di Macaone sorge nella località sacra chiamata La Rosa, e Euripilo fu poi ucciso da Neottolemo. Poco prima della caduta di Troia, i dissapori tra i figli di Priamo divennero così gravi che il re autorizzò Antenore a negoziare la pace con Agamennone. Arrivato al campo greco, Antenore, per sfogare il suo odio contro Deifobo, acconsentì a consegnare il palladio e la città nelle mani di Odisseo. Come compenso chiese il regno e metà del tesoro di Priamo. Disse inoltre ad Agamennone che si poteva contare anche sull'aiuto di Enea. Assieme concertarono un piano, e per metterlo in atto Odisseo pregò Diomede di picchiarlo senza misericordia. Poi, sporco, sanguinante e coperto di stracci, cercò asilo in Troia come se fosse uno schiavo fuggiasco. Soltanto Elena credette di riconoscerlo sotto quel travestimento, ma quando lo interrogò in segreto per scoprire la verità fu tratta in inganno dalle sue risposte evasive. Odisseo, tuttavia, non poté rifiutare l'invito di Elena e si recò nella sua casa, dove la regina gli fece il bagno, lo unse e lo rivestì di vesti preziose. Stabilita così la sua identità, giurò di non tradirlo. Fino a quel giorno essa si era confidata soltanto con Ecuba, purché egli le rivelasse tutti i particolari del suo piano. In quel momento entrò Ecuba. Odisseo subito si gettò ai suoi piedi, piangendo per il terrore, e la supplicò di non denunciarlo. Cosa abbastanza sorprendente, Ecuba acconsentì. Odisseo, allora guidato da Ecuba, si precipitò verso le mura e riuscì a raggiungere sano e salvo i suoi compagni con preziose informazioni. Si vantò poi di aver ucciso un buon numero di troiani che non volevano aprirgli le porte. Taluni dicono che Odisseo rubò il palladio in quella occasione, altri che egli e Diomede, in qualità di prediletti di Atena, furono scelti per tale impresa e salirono alla cittadella lungo uno stretto e fangoso cunicolo, uccisero le guardie addormentate e si impossessarono del simulacro che la sacerdotessa Teano, moglie di Antenore, consegnò loro senza difficoltà. La versione comunemente accettata, tuttavia, è che Diomede scalò le mura salendo sulle spalle di Odisseo, perché la scala era troppo corta, ed entrò da solo in Troia. Quando riapparve, portando il palladio tra le braccia, ambedue i guerrieri ripresero la via dell'accampamento greco, camminando a fianco, sotto la luna piena. Ma Odisseo voleva per sé tutto il merito dell'impresa. Rallentò, lasciandosi sorpassare da Diomede, che portava il simulacro sulle spalle, e l'avrebbe assassinato se Diomede non avesse visto disegnarsi sul terreno l'ombra della spada di Odisseo, poiché la luna era ancora bassa all'orizzonte. Subito Diomede si volse, sguainò la spada e, disarmato Odisseo, gli immobilizzò le mani dietro la schiena e lo riportò presso le navi a furia di calci. Da qui la frase «spinta di Diomede» che si applica a coloro che agiscono costretti dalla forza. I romani sostengono che Odisseo e Diomede rubarono dalla cittadella soltanto la copia del palladio e che Enea, dopo la caduta di Troia, si impadronì dell'autentico simulacro e lo portò in salvo in Italia. Tutti gli elementi di questa leggenda si possono considerare frutto di fantasia, salvo il furto del palladio, il misterioso atteggiamento di Ecuba nei riguardi di Odisseo e la morte di Paride per una ferita alla caviglia. La scapola di Pelope era probabilmente di avorio di pesce porco. La versione secondo la quale Filottete muore per il veleno delle frecce di Eracle intinte nel sangue dell'idra è indubbiamente la più antica. Pausania racconta: quando i greci ritornarono da Troia, la nave che portava la scapola di Pelope affondò al largo dell'Eubea. Molti anni dopo, un pescatore eretrio chiamato da Marmeno, che doma le vele, trovò impigliato nelle sue reti un osso di tali proporzioni che lo nascose nella sabbia e si recò dall'oracolo di Delfi per chiedere a chi appartenesse quell'osso e che cosa doveva farne. Per volere di Apollo, alcuni messaggeri e lei giunsero quello stesso giorno a Delfi per invocare aiuto contro una pestilenza. La Pizia disse dunque agli elei: «Procuratevi la scapola di Pelope e a Damarmeno dai il tuo osso a questi ambasciatori». Gli elei ricompensarono generosamente Damarmeno e eleggendolo custode della reliquia, e tale privilegio passò poi di padre in figlio. Quando giunsi in Elide, tuttavia, l'osso non esisteva più. Indubbiamente si era polverizzato col passar degli anni e per via della lunga immersione nell'acqua marina.